l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua in diretta con l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale in collaborazione con il network Euronet Plus, il nostro network, la nostra voce comune, questa Europa che si racconta nella sua attualità economica, politica, sociale e culturale. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, lo facciamo anche grazie alla rete facebook.com/l'altraeuropa, la nostra pagina ufficiale, oppure su Twitter, l'account, il mio personale, Federico Taddia, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Oggi parleremo della festa dell'Europa, parleremo della Pasqua greca e di quello che sta succedendo in queste ore, in questi giorni, lungo le strade di Atene. Parleremo di una bella iniziativa che ha sfogo ed eco europeo, però parte da Trento, parte dall'Italia, e poi sveglieremo Marco Mengoni, col quale parleremo d'Europa, parleremo della sua idea d'Europa, visto che sarà proprio lui a rappresentare l'Italia tra un paio di settimane in Svezia, quando sarà il rappresentante del contest dell'Eurosong. Sapete che ogni anno c'è questo festival europeo, l'Eurovision Song Contest, e sarà proprio Marco Mengoni, la voce italiana. Con lui quindi parleremo di come si sta preparando a questa tappa europea. Un lungo viaggio, insomma, e si parte da Barcellona. Una canzone tendenzialmente allegra, si parla di riciclo, e la usiamo per andare in Spagna, la Spagna che è uno dei tanti simboli della crisi europea, con un numero che è uscito la scorsa settimana, una cifra da brividi, 6.202.700 persone senza lavoro, il 27% della popolazione disoccupata, il 57% tra gli under 25, numeri che fanno paura, numeri che spaventano, perché si vede, si coglie il rischio di un contagio. Tante volte abbiamo parlato della crisi europea, tante volte in chiave positiva, lo faremo anche oggi, tante volte anche cercando quelle che sono le conseguenze, che sono anche conseguenze di tipo sociale, di tipo culturale, perché la disperazione chiama la creatività, ma a volte la disperazione chiama anche a scelte estreme. E a Barcellona una di queste scelte estreme si chiamano ladri di immondizia, sono i cartoneros, così vengono definiti, rubano alla sera, escono per rubare la carta, per rubare il cartone e cercare poi di rivenderlo, un'attività assolutamente illegale, perché i rifiuti sono di proprietà del comune, ma basta girare per le strade di qualsiasi città spagnola, Madrid, Barcellona, per vedere ragazzi che all'imbrunire caricano sul camion la raccolta differenziata dei cassonetti e via, cercano di rivendere questa immondizia, cercano di rivendere i rifiuti. Con noi c'è Francesca Soler, responsabile dell'area ambiente del comune di Barcellona, che abbiamo invitato per conoscere i loro punti di vista e per avere un quadro della situazione. Ciao Francesca e benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Abbiamo scoperto questo fenomeno grazie a un articolo pubblicato qualche giorno fa sul quotidiano La Stampa. È veramente emergenza cartoner, e perché è un'emergenza? Durante quest'anno, già nel 2012, noi abbiamo osservato che c'era un fenomeno in cui evidentemente c'era della gente che cercava di recuperare al loro servizio i cartoni e le carte. Io vorrei, prima di commentare questo, sì, fare un'analisi più globale di cosa succede a Barcellona rispetto alle immondizie in generale. Noi abbiamo a Barcellona un sistema di raccolta qualificata, dunque lo facciamo per frazioni: il vetro da una parte, la carta, il cartone da un'altra. Raccolta differenziata. Sì. Sì, è tutto differenziato: le plastiche e i metalli, l'organica e i rifiuti. In tutti questi spazi si è osservata una discesa del volume di raccolta, perché la crisi evidentemente colpeggia forte e evidentemente il consumo discende. Dunque, meno consumo, meno immondizie. Certo. D'altra parte è vero che questo succede più specialmente nel 2011. C'era certa industria parallela in cui c'era della gente che organizzata con camion raccoglieva questi cartoni, queste carte. Questo è andata abbastanza in discesa, perché c'è stato un controllo molto frequente della polizia urbana. Quello che abbiamo osservato è un cambio di questa tendenza, e adesso c'è della gente che individualmente va raccogliendo i cartoni e le carte col carrello dei supermarket. E questa gente possono rivendere certamente queste carte. Questo fenomeno si dà specialmente nelle carte e nei cartoni, sì, sì. Più nelle carte che nei cartoni. Francesco, ma sono senza fissa dimora, sono persone che hanno perso il lavoro, persone normali? Non abbiamo un risultato robot della gente. È variopinto. Evidentemente è gente che ha perso il lavoro. Noi quello che facciamo adesso, in collaborazione con i servizi sociali del comune, facciamo un seguimento di questa gente che, quando vengono, certa volta vengono presi da, no, non presi, no, no, adesso non so la parola in italiano giusta, mm-hmm, quando vengono avvertiti dalla polizia, sì, vengono ricondotti a rilasciare la carta di cartone nel contenitore speciale, e dopo si riportano dai servizi sociali per cercare di sistemarli in qualche servizio di aiuto. Ma non c'è un ritardo robot specifico, può darsi che sia gente senza lavoro, o qualche volta può essere gente che si dedica a questo qua, perché questo genera ancora adesso certo beneficio economico. Certo, comunque il confine tra delinquenza fine a se stessa o delinquenza per la sopravvivenza è un confine minimo. È una linea molto sottile. Quindi è importante, sì, anche appunto il supporto che date con i servizi sociali. Francesco, grazie davvero per averci fotografato la situazione. Prima di salutarci, una curiosità, sì, che però è significativa, è bella e mi piace dirla. Come mai che parli italiano? Beh, io ho avuto la fortuna, sempre per la fortuna, di studiare al Liceo Italiano di Barcellona dai 6 anni ai 17. E dunque, sempre che posso, io sono lietissimo, contentissimo di parlare l'italiano. No, non lo parlo come te, evidentemente, ma ci sento. E allora, se ho l'opportunità, io leggo spesso in italiano, ascolto tutto quello che posso in italiano, non lo voglio perdere. Uh-huh. E questa è la storia, no? Perciò parlo l'italiano. Anche vado molte volte in Italia, ho degli amici a Ravenna. Uh-huh. Ma avevi scelto la scuola italiana per non, sì, sì, per non fare le scuole franchiste, vero? È vero, è così. Sì, sì, i miei genitori non hanno voluto che facessimo le scuole franchiste, tanto mio fratello come me, ci hanno matricolati nel Liceo Italiano di Barcellona, e siamo contentissimi perché abbiamo fatto una buona formazione, questo è vero. Perfetto, grazie davvero, buon lavoro a te e a tutti i tuoi collaboratori. Grazie a voi, buona giornata, e vi ringrazio perché avete permesso di spiegarvi la nostra esperienza. Grazie, ciao, buon sabato. Europost-it. Ancora una volta Firenze diventa capitale del vecchio continente. Dal 7 al 12 maggio torna il Festival d'Europa a Firenze, un'occasione di riflessione sul futuro dell'Unione, un laboratorio della comunicazione tra le istituzioni europee e i cittadini, una vetrina delle attività dell'Unione Europea e dei 27 Stati membri. Per 5 giorni le piazze, i centri culturali, i teatri e le scuole delle città si coloreranno di blu con eventi culturali, mostre, spettacoli, iniziative didattiche, scientifiche e incontri declinati secondo le parole chiave dell'anno europeo: cittadinanza, partecipazione, lavoro, giovani, cultura, pace, democrazia, futuro. Un vero e proprio incontro con l'Europa e i suoi valori fondanti. Un'occasione da condividere per promuovere una cittadinanza europea consapevole. Per conoscere il programma e tutti i dettagli, collegatevi al sito festivaldeuropa.eu. Stomach and no sleep, the shortcomings got clearer as the price we paid got dearer and dearer. Supposed to be a case of give and take. Well, I was feeling the give and making a mistake. And I've heard it said that the unexamined life isn't much worth living, and I'm sure there are. But disoccupazione giovanile, quanto è esteso il problema e quali strumenti possono ridurlo? I giovani gravemente colpiti dalla crisi economica, prima leggevamo i dati della Spagna, ma sono dati simili anche a livello europeo, a livello comunitario. Quali sono gli strumenti comuni efficaci per ridurre allora questa disoccupazione giovanile? Questa è la richiesta comune che si pone Euronet, Euronet Plus, il nostro network, questa settimana. Si parla tanto di disoccupazione, poi però ci sono proposte, ci sono iniziative. Ovviamente sarebbe un argomento vastissimo da trattare, quindi come facciamo spesso all'Altra Europa, abbiamo voluto scegliere una storia positiva, una storia che è nel cuore dell'Europa, ma questa volta questa storia che è inserita nel cuore dell'Europa parte dall'Italia, parte da Trento, parte dalla Silicon Valley delle Alpi, così è stato definito questo centro. Sto parlando di Trento Rise, che è un ente pubblico, è un polo scientifico dove si fa scienza, si fa ricerca, si fa innovazione, ma lo si fa soprattutto mettendo insieme competenze, energie, facendo interazione tra quella che è la ricerca, che è l'università, che è l'impresa, che è la risorsa territoriale. E tra i tanti programmi proposti ce n'è uno che si chiama TechPix, che è stato presentato ieri sera qui a Milano in una serata organizzata da Renner, la serata dei pionieri, ed è un programma che loro hanno definito un progetto di acceleratore di persona. Si parte mettendo al centro la persona per farla poi lavorare in team. Un team internazionale, perché è un progetto internazionale. Per capire di cosa si tratta, per capire la forza di questo progetto e anche come l'innovazione, l'occupazione e l'idea e la creatività possono essere veramente una risposta alla disoccupazione, abbiamo invitato il coordinatore del progetto TechPix e diamo il benvenuto a Paolo Lombardi. Ciao Paolo. Ciao Federico, buongiorno a tutti. E definire che cos'è Trento Rise non è facile, definire e spiegare in poche parole che cos'è TechPix nemmeno, quindi abbiamo bisogno del tuo aiuto. Intanto raccontiamo anche in chiave europea che cos'è Trento Rise. Trento Rise è un'istituzione che lavora per l'innovazione, mettendo in sinergia i diversi attori dell'innovazione, dall'università ai centri di ricerca, alle associazioni di categoria, alle piccole e medie imprese, alle grandi aziende multinazionali, cercando di abbassare le barriere di comunicazione tra questi che a volte sono quasi non comunicanti. E noi agiamo su due livelli. Il primo livello è in Trentino, dove siamo nati per volontà della provincia autonoma di Trento e della Fondazione Bruno Kessler e dell'Università di Trento, e agiamo a livello europeo come partner principale core dell'istituto istituto europeo di tecnologia, European Institute of Technology, che è la proposta della Commissione Barroso di avere una versione europea del famoso MIT, sì. Massachusetts Institute of Technology. Certo, e tu tra l'altro Paolo per un periodo della tua carriera, tu sei relativamente giovane ma hai già un passato professionale vastissimo, e hai lavorato proprio come consulente per la Commissione Europea, quindi conosci bene anche quelle che sono le dinamiche, conosci bene credo quello che sia questo stretto rapporto che c'è tra il centro, tra Bruxelles e il territorio, cioè come questa doppia forza possa essere a volte uno stagno burocratico, ma altre volte, e credo che sia la testimonianza di quello che fate voi, possa essere veramente una leva bidirezionale tra l'Europa e il territorio. Assolutamente, bisogna sopportare e superare la burocrazia che è necessaria ai noi per gestire un sistema che è molto diverso dalla Spagna all'Estonia e dall'Italia alla Danimarca e alla Svezia, quindi quella non si può purtroppo farne a meno, almeno per ora. Magari con l'innovazione tecnologica e l'informatizzazione si può superare anche quella barriera burocratica, ma il rapporto tra centro e regioni è fondamentale. Noi stiamo andando, credo, verso una gestione sempre più vicina al territorio, verso un'Europa delle regioni, se ne parla tanto, vediamo dove porta, speriamo di portare anche noi il contributo da Trento mostrando quello che si può fare a livello locale comunicando con certo. Il centro. E proprio questo progetto TechPix è un progetto innovativo a livello mondiale, non solo europeo, ce lo vuoi raccontare? Perché è strano, no? Nel senso, si parla di disoccupazione, si pensa che non ci siano proposte, che non ci siano soluzioni, e poi invece l'ente pubblico decide di investire e va a investire lì su quella che è la risorsa fondamentale, cioè la persona. La persona, i giovani, ma soprattutto le persone che vogliono mettersi a cambiare le regole, a cambiare le regole della competitività, quindi creare delle iniziative che possano riportare economia nei luoghi dove vengono generate attraverso l'innovazione e quindi una proposta che possa competere nei mercati globali. Quindi sì, TechPix si scrive intanto Tech con la H alla fine e Pix come le montagne, quindi P-E-A-K-S, sì. Ma PEAX è anche la contrazione People Accelerator in inglese, cioè acceleratore di persone. E, è una proposta nuova a livello mondiale perché è un formato dove si prendono i giovani e meno giovani, perché abbiamo tanti quarantenni, anche una signora di 56 anni statunitense che ha fatto domanda, che a volte hanno un'idea per creare una nuova impresa, ma non hanno le persone con cui crearla, non hanno le competenze, a volte hanno un amico, ma di nuovo gli manca il resto del gruppo di fondatori per poter affrontare l'impresa. Sì. Li mettiamo tutti insieme in un laboratorio che dura 6 mesi, di cui i primissimi giorni, i primi mesi sono molto intensi, e nel quale possono presentare l'idea a diversi mentori internazionali, europei, ma di nuovo anche statunitensi, dalla Russia, e per ora a questo giro, e poi speriamo di aumentarlo anche ancora di più a livello mondiale, presentarlo a mentori, presentarlo a esperti ed investitori, ottenere tutti i consigli che servono a diminuire il rischio associato con l'innovazione. Mm-hmm. E quindi da esperti che conoscono il mercato in cui queste nuove iniziative si vogliono muovere, a esperti e ricercatori che conoscono le tecnologie che potrebbero dare una mano a queste nuove iniziative e in questo modo costituire da una parte le competenze e le conoscenze, dall'altra acquisirle conoscendo le persone che le portano, sia gli esperti che gli altri partecipanti, il programmatore di web, piuttosto che il designer di applicazioni su iPhone, su Android, su cellulare, su smartphone in generale, che possono completare il team e quindi dare avvio all'impresa. Certo. Paolo, grazie davvero, è un progetto veramente lungo, parte a settimane, saranno 6 mesi di formazione, saranno 6 mesi di contaminazione oltre che di formazione, credo che questa sia una delle parole chiave anche del vostro progetto. Ci vuoi dare un sito di riferimento per seguirvi durante questa avventura? Il sito è techpeaks, scritto come dicevo prima, sì. .eu, sì. E poi anche per seguirci abbiamo il canale Twitter che è la stessa cosa, chiocciola tech con la H, peaks, P-A-K-S. Perfetto, buona scalata verso questi grazie. Picchi di eccellenza. Ciao, grazie, grazie. Buon lavoro. Ciao, buona ciao. Giornata. Paolo Lombardi grazie. Di Trento Rise. Europost-it. E quest'anno ce lo avete l'Inv Factor? Giovani inventori e scienziati in erba, anche quest'anno c'è un concorso per voi. È la quarta edizione di Inv Factor, anche tu genio, la competizione organizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea per valorizzare la creatività sviluppata dagli studenti italiani durante la formazione scolastica. L'anno scorso, tra gli altri, hanno vinto i colori della natura per tingere le stoffe di un istituto di Catania e un sistema antiribaltamento dei trattori di alcuni studenti di Bolzano. Per aderire e informarsi occorre collegarsi al sito invfactor.com, ma attenzione, c'è tempo fino al 15 maggio. Le proposte presentate da studenti e insegnanti saranno giudicate da una commissione di esperti che selezionerà una rosa di finalisti e decreterà i vincitori. La premiazione dei finalisti avverrà in settembre a Roma presso lo Spazio Europa. I vincitori saranno invitati a esporre e illustrare le loro invenzioni in occasione di Light, accendi la luce sulla scienza, nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori, che si terrà al Planetario di Roma il 27 settembre. Questa sonorità tradizionale greca entriamo nel clima della Pasqua, ortodossa della Pasqua greca, domani è Pasqua, una Pasqua dove non c'è niente, questo è quello che ci ha detto Margherita De Anna, che abbiamo invitato con noi, corrispondente di Radio Popolare, lettera 43, e della Radio Svizzera, corrispondente da Atene. Ciao Margherita, ben ritrovata all'Altra Europa. Buongiorno a te. Margherita, ti abbiamo invitato perché sono stati giorni particolari questi, soprattutto nel rapporto tra il sindaco di Atene e Alba Dorata, in un contesto che è quello della Pasqua, quindi quello di una festa anche, ma di una festa intrisa di crisi, che è la quotidianità, ormai una quotidianità lunghissima, perché sono mesi, sono anni che c'è questa crisi che vi accompagna. Prima di entrare nello specifico di quello che è successo giornalisticamente, Margherita, ci puoi veramente dare una sensazione di quello che è il clima oggi in Grecia? La Pasqua per gli ortodossi è molto importante. Quindi diciamo che siamo a poche ore prima della resurrezione, che sarà questa notte, a mezzanotte, e diciamo che gli ultimi giorni della settimana della passione di Gesù Cristo sono, soprattutto si vede questa cosa molto in una città altrimenti caotica come Atene, sono particolari perché è tutto come un po' fermo. Ieri le campane di tutte le chiese in città suonavano a lutto per tutto il giorno, poi c'è la deposizione l'adorazione del Cristo, di notte va in giro l'epitafio, cioè la bara, insomma, del Cristo, quindi, come dire, una sensazione abbastanza particolare, un clima un po' surreale, però c'è da dire anche che, come nella canzone poi si sente, la Pasqua è una festa in realtà appunto della primavera, poi in realtà, certo. E quindi domani sicuramente il clima sarà molto diverso e ad Atene si sentirà dappertutto, in tutte le strade, l'odore del tradizionale poi agnello allo schido, piuttosto che ripieno che si mangia ai giorni di Pasqua. Siamo in Grecia, siamo ad Atene con Margherita Dehan, ci ha così fatto respirare il clima della Pasqua ortodossa che si preparano a festeggiare nella città, nella nazione greca, una nazione che ne è una città, una capitale che in questi giorni ha vissuto l'ennesima provocazione di Alba Dorata, questo movimento populista che ha un seguito. Che seguito ha Margherita in questo periodo? Nel senso che dopo l'esplosione dei mesi scorsi, giornalisticamente c'è meno comunicazione, c'è meno informazione. Qual è la realtà attuale? La realtà è che per i sondaggi Alba Dorata continua tranquillamente a essere il terzo partito in Grecia con percentuali di circa il 10%. E sarà interessante vedere come si muoveranno gli elettori in vista delle elezioni amministrative dell'autunno del 2014. Ricordo che Atene è un po' il cuore di Alba Dorata, qui diciamo si sviluppa. E già nel 2010 alle amministrative Alba Dorata riuscì a mandare per la prima volta in consiglio comunale il suo leader, poi diventato un deputato del Parlamento greco a giugno, alle elezioni nazionali di giugno 2012. E proprio ad Atene c'è stata questa sorta di provocazione. La provocazione consisteva in una distribuzione di cibo fatto dai militanti di Alba Dorata, ma solo ai cittadini greci, giusto? Sì, è una prassi comune, spesso organizzano queste cose quelli di Alba Dorata, sono distribuzioni di cibi medicinali, anche di sangue, raccolta di sangue greco per soli greci. A fronte di questo di solito non c'è mai stata una presa di posizione da parte delle istituzioni. È successo per la prima volta l'altro ieri quando il sindaco di Atene ha dichiarato di vietare la distribuzione, questa distribuzione particolare di Alba Dorata, in concomitanza con la Pasqua, e organizzata nella piazza centrale di Atene davanti al Parlamento, dichiarando che la vietava perché una distribuzione razzista. Quindi il giorno dopo, la mattina, i membri di Alba Dorata sono andati in piazza Sintagma, dove era prevista appunto la distribuzione, però la piazza era già chiusa dalla polizia la polizia è intervenuta, gli antisommossa hanno fatto anche un uso piccolo, ma hanno usato lacrimogeni contro i membri di Alba Dorata, che si sono allontanati poi. E la distribuzione è avvenuta nella sede principale del partito. Se non che un paio di ore dopo il sindaco di Atene si è recato alla mensa del comune, che è poco lontana, poco distante dalla sede di Alba Dorata, e lì è stato raggiunto da un deputato di Alba Dorata che si chiama Yorgos Germenis, il quale ha cercato di colpirlo con un pugno, deviato dalla sicurezza del sindaco su una bambina lì presente, solo che il sindaco ha poi denunciato il deputato Germanis, accusandolo di aver cercato di usare, di estrarre la pistola che Germanis aveva nella tasca posteriore dei pantaloni. Ok, quindi comunque una colluttazione, ma Margherita, al di là della colluttazione, al di là di tutti i fatti che sono seguiti, appunto la bambina coinvolta, adesso ci saranno le conseguenze del caso, però dal punto di vista simbolico tu pensi sia stato non tanto la colluttazione quanto il divieto, quanto questa forte presa di posizione del sindaco di Atene dal punto di vista simbolico può essere il segnale di una svolta di qualche tipo? Ma si potrebbe credere, c'è un altro indizio molto importante, una notizia di oggi, e cioè che il governo la settimana prossima è pronto a presentare un disegno legge che regolamenta il reato di razzismo, xenofobia, omofobia, negazionismo e apologia del fascismo e nazismo. Un disegno quindi nuovo, una legge nuova, pene molto più pesanti rispetto a quelle previste sinora dal codice penale, tra cui anche interessante notare come quando il reo di comportamenti razzisti, omofobi eccetera sia il leader di un partito politico, sì, questo partito politico non potrà più usufruire dei finanziamenti pubblici. Insomma, quindi sicuramente qualcosa sta succedendo. Grazie davvero a Margherita. Ricordiamo il suo blog per conoscere meglio il suo lavoro e quello che succede in Grecia e non solo. margheritadean.wordpress.com. Ciao Margherita e buona Pasqua. Grazie mille. ciao. Il sole dentro. La storia di una lettera al Parlamento europeo. La storia vera del viaggio di Yagin e Fodé nascosti tra i carrelli di un aereo diretto a Bruxelles. Oh, è proprio vero, che voi neri ci avete nel sangue il calcio. L'avventura di due giovani calciatori, Tabo e Rocco. Luigi, ma che bella sorpresa che mi sono fatto! I soldi no! No! Ti vieni con me? Ebbene, dai, tanto la casa non è dove sei nato, è dove ti vogliono bene. Una casa che cercano attraversando l'Africa con un pallone. Che stai facendo? Mio fidanzato. Ma cos'è quello? Si sa. Ma si sa. Chi sa? Il sole dentro. La storia di due grandi amicizie, di incontri straordinari. Oh, faccia magia, faccio sparire il pallone, guarda qua. Un autista prestigiatore. Quello che state ascoltando è il trailer di un film intitolato Il sole dentro, un film molto bello, molto vero, molto intenso. Il sole dentro avrà una proiezione speciale il 7 maggio al Parlamento europeo, nella sede di Bruxelles, dove non verrà solo proiettato il film, ma verranno anche consegnate tantissime lettere nate, ispirate da questo film, da questa storia. L'iniziativa si chiama Fatti sentire, scrivi ai responsabili dell'Europa. È un'iniziativa sviluppata e realizzata dall'Alveare Cinema e promossa da Silvia Costa e Gianni Pitella, eurodeputati. Ci sono molte collaborazioni. È proprio l'idea che ci piace di interazione tra il territorio, tra le periferie. In questo caso la periferia sono i ragazzi delle scuole e il cuore della nostra Europa. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato Paolo Bianchini, che è il regista del Sole Dentro e ambasciatore UNICEF. Ciao Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a tutti. E con noi c'è anche Federica Critelli, che è una delle studentesse del quinto anno dell'Istituto Magistrale Statale Santa Rosa da Viterbo, che ha scritto... Esatto. Una delle lettere appunto che verranno consegnate a Bruxelles. Ciao Federica, benvenuta. Buongiorno. Ciao. Paolo, abbiamo poco tempo e già mi scuso in anticipo, ma ci tenevamo a sottolineare questa bella iniziativa. Che cos'è il sole dentro? Perché il sole dentro oggi può arrivare e deve arrivare nel cuore dell'Europa? A Roma è un'espressione che dà l'idea forte, la tigna, cioè la determinazione che abbiamo sentito di dover fare assolutamente qualcosa. Avevamo scoperto 5 anni fa frammenti della lettera di Yagin e Fodé dimenticata e dimenticati i due ragazzi, il sacrificio di questi due ragazzi nessuno più lo ricordava. Sì. E ci sembrava veramente impossibile, dopo aver immaginato che cosa aveva spinto questi due ragazzi a scrivere, invito a leggere la lettera per poter capire meglio il valore delle parole che sto dicendo, questo affidare ad una lettera una speranza, la speranza di un continente intero. Loro parlavano a nome di tutti i bambini e tutti i ragazzi africani. A noi quella lettera è sembrata la lettera di tutti i ragazzi e bambini di quel sud del mondo che sono le nostre periferie, dietro casa nostra, e c'è un sud del mondo. A questa lettera il Parlamento europeo non aveva mai dato una risposta. Abbiamo per un paio d'anni cercato di raccontarle in un film, questo è il, sì, faccio il cantastorie, che racconto attraverso le immagini le storie delle persone, ed era proprio di queste persone, quelle che nessuno guarda e ascolta più, e sono tante, sono è la maggioranza poi delle persone che non ha voce, e la loro voce quando non è ascoltata, ecco, questo abbiamo voluto fare. Ci siamo riusciti proprio andando in giro col piattino per raccogliere quello che ci serviva per realizzare questo film, quello di, il racconto di Yaghine Fodé, il racconto di Tab e Rocco, altri due ragazzi che rappresentano oggi ancora quel traffico ignoto di bambini calciatori, che è in tutto il mondo, dove il calcio è ricco, nasce un mercato, il mercato della carne. Certo, sì, della carne e il mercato dei sogni. Federica, cos'hai scritto all'Europa? La tua è una lettera lunghissima, non possiamo leggerla tutta, però ti chiedo appunto di trasformare la lettera in un tweet, ovvero una sintesi. Qual è il cuore della tua richiesta, del tuo invito, della tua invocazione? Beh, diciamo che, come hai detto anche te, la lettera è veramente lunga, perché ho espresso tutti, diciamo, i sentimenti che ho riscontrato guardando il film del maestro Bianchini. Però quello che volevo dire all'Europa è che a volte sembra quasi troppo inavvicinabile, intoccabile, troppo lontana, non solo con gli stessi europei, ma anche con l'Africa, che ho considerato un po' come la sua sorella e che l'ha lasciata abbandonata, non l'ha difesa, non ha difeso chi chiedeva aiuto. E ho visto una violazione dei diritti dei bambini, dei diritti umani. E come i bambini ho chiesto anch'io un po' d'aiuto a questa Europa, e speriamo che l'Europa ci possa venire incontro. E intanto che ti possa rispondere. Paolo, insomma, mi sembra una bellissima esperienza. Sei stato bravissimo tu a cogliere questa storia, a raccontarla, ma è bella veramente la risonanza che c'è ora, e credo che il 7 maggio sia veramente una data significativa. Siamo a ridosso della festa dell'Europa, ma l'Europa va festeggiata così, portando contenuti, portando speranze, portando richieste, nel senso che va poi stimolata in chiave propositiva. Quindi complimenti davvero, Paolo, e in bocca al lupo, perché non è un traguardo, ma credo sia un punto di passaggio, giusto? Volevo chiedere proprio questo, proprio contaminiamoci di intimità, cioè quando racconti da vicino la storia delle persone, tu parli al cuore, trasmetti un'emozione, ed è questo film piccolo, ignoto, lo invitano ad un festival a Shanghai, da lì un ignoto signore ci avvicina. Era Airaldo Piva, presidente di una delle più grosse multinazionali cinesi, si occupa anche di sociale, eccetera, e da lì proprio per contaminazione siamo finiti al Parlamento europeo con migliaia di ragazzi che parlano. Vorremmo continuare anche insieme a voi. E noi ci saremo. E saluto Paolo Bianchini e Federica Critelli, leggendo le ultime righe della lettera di Federica, che appunto saluta l'Europa con queste parole. Distinti saluti all'Europa, l'Europa del sale, del pepe, delle spezie inebrianti. Distinti saluti all'Europa delle stradine colorate, dai pani stesi e dai mercati estesi. All'Europa dei boschi incorniciati nella luce dei raggi del sole, e all'Europa dei cuori ancora pieni d'amore. A risentirci all'Europa della grande chiesa di Parigi, di Milano e delle stelle che brillano negli occhi della gente dall'aria sofferente. Pronto a correre è il nuovo singolo di Marco Mengoni, un Marco Mengoni pronto a correre verso Malmo in Svezia per il prossimo Eurovision Song Contest. L'appuntamento è il 18 maggio e quindi oggi abbiamo voluto disturbare Marco per chiedere se è pronto, come si sta preparando e soprattutto per lui l'Europa, che cos'è. Con noi Marco Mengoni, ciao Marco. Pronto, buongiorno. Buongiorno a te. Sei un po' emozionato? Mi sono svegliato da poco. Lo so, è il nostro... sente tipo dalla voce. Non ti facciamo cantare, promesso. Marco, tra un po' devo iniziare perché qui siamo in preparazione, quindi... Anche perché, ricordo l'anno scorso ne avevamo parlato con la tua collega, con Nina Zilli, e ci raccontava veramente di un'organizzazione capillare dell'Eurovision, comunque prove su prove, cioè nel senso comunque un'esperienza impegnativa anche per voi artisti. No, io guarda, devo dire che sicuramente quando saremo su ci sarà da fare ogni giorno qualsiasi cosa, ma loro già hanno iniziato da un bel po' di tempo comunque a concordare con noi le esibizioni, ma dalla prima ripresa all'ultima, cioè dalla ripresa del capello a quella del vestito, al colore del vestito, alla luce, sono perfezionisti all'ennesima potenza. Ma per un artista cosa significa salire su un palco grande quanto l'Europa? Ansia significa... Significa sicuramente una cosa bellissima, un'esperienza credo che sarà e spero sarà indimenticabile. Certo. Mi sento un po' piccolo a salire su quel palco così grande e comunque a rappresentare una nazione musicalmente, anche perché dovremmo salire in 40.000 lì sopra, quindi... E sarà tanto. Ma invece Marco, una domanda, tanta emozione. Una domanda che faccio un po' meno all'artista e più all'uomo, al giovane. Tu comunque appartieni alla generazione che è nata con l'Europa. Per te l'Europa che cos'è? Un qualcosa di distante, un qualcosa di lontano, o è un qualcosa che è un sentimento, un concetto che senti tuo? Tu ti senti cittadino europeo? Mi sento cittadino europeo. Sì, sotto alcuni punti di vista sì, per altri no, ma perché facciamo anche parte di un'Italia che ci tiene a rimanere anche nelle sue radici, no? Mm-hmm. Che non è molto disposta al compromesso alcune volte. Certo. Però sì, perché no, poi mi sono anche spostato, sono andato a vivere da Roma a Milano, quindi già mi sto spostando verso, sempre di più verso l'Europa. ti stai avvicinando, insomma. Sì, pian piano, capito, si arriva a Lugano, quindi sì, tutto il resto. Beh, insomma, la Svezia è sua, nel senso che comunque farai uno scatto nelle prossime settimane che sarà molto, molto rapido. Quando andrai a Malmo? Già nei prossimi giorni ti trasferisci? Noi credo partiamo a Malmo. Noi abbiamo la prima data a Milano e poi partiamo subito, credo il 10 o l'11. Ok. Parlavo con Marta Cagnola, che è la nostra collega qui a Radio 24, che ti seguirà perché sarà presente lì, con la quale parleremo e seguiremo poi anche le vicende artistiche di quei giorni. Lei si sta facendo grandi domande sull'abbigliamento, sarà caldo, sarà freddo, credo che per un artista, poi tu al look ci tieni, ti sei fatto anche tu questa domanda, sarà caldo o sarà freddo? Sul palco non esistono né caldi né freddi. Sul palco devi andare così, devi seguire il concept di un pezzo o comunque la storia di quel pezzo, quindi non esisteranno 40 o meno 12 gradi. Sicuramente saremo comunque in linea con quello che poi rappresenta la canzone, con quello che è nato poi a Sanremo, perché è nata lì, poi il pezzo è stato battezzato da dal festival. Certo. Ma Marco, grazie davvero, ti facciamo il nostro in bocca al lupo. Noi siamo un po' una voce dell'Europa, quindi ti seguiremo perché l'Europa è anche questa, anche cultura, anche incontro, anche salire su un palco, rappresentare il proprio paese, ma avere il coraggio di mettersi in gioco e di contaminarsi con tutte le altre realtà. Ti salutiamo con l'essenziale, così ti accompagniamo verso la Svezia con il tuo pezzo. Ciao e buon sabato. Ciao, grazie a voi. Ciao Marco. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra, ambire poi la pace. E nel silenzio mio. Margherita Hina, Mirma Lucchetti, Giorgio De Luca, Carmelo Lauricella, questa è la squadra dell'Altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia. Questa settimana è la settimana di festa, c'è la festa dell'Europa, ci sentiremo spesso, ma l'appuntamento è a sabato prossimo. Ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.